si converge se si lavora insieme, se ci si ascolta e se si attraversa territori e le lotte altre. Io ho cominciato a risorgere quando ho visto voi insorgere. Come si fa ad avere effettivamente al fianco le persone? Io ho fatto sempre lavori al nero, ultra precari, fino a quando poi ho avuto la pessima idea di cominciare a fare dei figli. Ogni volta che ho fatto un figlio ho perso un posto di lavoro. Quindi ve lo chiediamo noi, ma voi come state? Cioè, quanto siete disposti ad andare avanti ad accettare questo?